tu nel tenebrosi, cerca di una via di fuga, mentre tu nel prenebrosi, cerca di una tua di cura. Guardo su perché se sposi, le scuse poi soccombi, in mezzo a losers velenosi e porte chiuse che non sfondi. Non sei pratico qua stoni, senti il panico a tastoni, resto umile fra te pure se carico a bastoni. È automatico cazzoni che se sradi come l'erbe, io vi decimo ed è lecito, lo pratico da sempre. Da perde, niente, a parte sto respiro, miro a fottere giocando a dadi a carte, sto destino giro con l'autobus, resto cauto, non penso che la mia moralità valga il tuo l'autocompenso. Ho perso soli soldi, mai capito il senso, l'importante è quello, solo quello ti confesso anche sul sample. Queste cose posso dirle forte, basta quello che c'ho dentro, abbatte vede mille volte ciò che c'è da dire all'inizio della fine, quel che sopravvive, questa Sweet Dreamers, la verità nascosta ancora da scrivere, che si discosta da chi mostra sulle copertine. Ciò che c'è da dire all'inizio della fine, quel che sopravvive, questa Sweet Dreamers, la verità nascosta ancora da scrivere, che si discosta da chi mostra sulle copertine. Schieramento compatto, formazione Sweet Dreamers, passo dopo passo un patto atto a capire il senso desta giostra, che gira senza sosta, posta e rotto opposta verso ogni svolta vostra. E apposta, stronzi, datemi i soldi, non è una rapina, è linfa per i sogni. Spesso incasso colpi senza sconti a buio questo, in fin dei conti casco e perdo ma resto lo stesso. Oppresso, ostento, odio perché porta appresso ricordi morti tra le barre prima del processo. Serpenti nel colletto, la lava scava in petto, mentre fuori il freddo mi fa fuori, a cuore scoperto riesco su carta a dare forma a giorni astratti. Giucco contro K, fotta coi contro cazzi. Voi altri, vi sento più distanti, disconnetto, necessito distanti più importanti, fotte cazzi il resto. Ciò che c'è da dire all'inizio della fine, quel che sopravvive, questa Sweet Dreamers, la verità nascosta ancora da scrivere, che si discosta da chi mostra sulle copertine. Ciò che c'è da dire all'inizio della fine, quel che sopravvive, questa Sweet Dreamers, la verità nascosta ancora da scrivere, che si discosta da chi mostra sulle copertine. Il passato è certo, il futuro ancora da scrivere, ciò che ho passato è certo, il motivo per cui so vivere. Non dico di sorridere in questo presente incerto, che non splende intendo, che tu non ti puoi sopprimere. Allora dai, l'unico scopo è questo, prendi quello che ti spetta e sai che non è un gioco, è presto. Mettirà le somme in una vita di sottrazioni, ma il tempo incombe, sfida chi ti chiede prostrazioni. Poche piccole impressioni, una grande dimostrazione che le piccole persone danno grandi delusioni. Adesso basta, niente passa, manca tutto, tutto casca, faccio tesoro di esperienze, non di soldi in tasca. Sierra, a.k.a. carattere di merda, autocritica aperta e sincerità che scotta, sotto a chi tocca, sono un treno in corsa. L'ego non si forgia con parole a mezza bocca. Ciò che c'è da dire all'inizio della fine, quel che sopravvive, questa Sweet Dreamers, la verità nascosta ancora da scrivere, che si discosta da chi mostra sulle copertine. Ciò che c'è da dire all'inizio della fine, quel che sopravvive, questa Sweet Dreamers, la verità nascosta ancora da scrivere, che si discosta da chi mostra sulle copertine.